problema è che ci sono molte persone che rimangono attaccati a dei singoli argomenti che poi sono anche molto limitati, e quindi a posto di stare all'ascolto magari entrano e tentano di divagare. E così poi queste che dicono, queste persone dicono quelle cose, secondo me non ci fanno una bella figura comunque, perché se io non sono d'accordo con te faccio il break e dico che sta ascoltando eccetera, però mi risulta che l'informazione che hai dato non è esattamente così, ma così e così, così colà. E fornisci la tua versione, è un modo civile di interloquire. È un modo quasi obbligatorio, visto anche su altri campi, cioè capito, no? È un problema un po' di stile, ecco, d'educazione, mettiamola così. Ma assolutamente, purtroppo il mondo è bello perché è vario, come dice qualcuno, però normalmente le persone che parlano con la radio sono delle persone adulte, e molte volte vedo delle cose che forse i ragazzi di 13-14 anni, permalosi, invidiosi, e poi non parliamo di altro, ed è brutto vedere così. Infatti io molte volte preferisco non intervenire, rimango al di fuori, perché ci sono delle cose che non mi piacciono, però la radio, come ho detto sempre, per me è un divertimento, mi ho finito il lavoro, e poi ci vado dentro, c'è mio genero, mia figlia a casa, e detto, dai, mi faccio una mezz'oretta con gli amici qua, se c'è qualche argomento interessante, proprio come valvola di sfogo, io la vedo così. Poi c'è qualcuno che magari si offende se gli dici che sta uscendo male, anziché come mi dici tu, quando mi dico, guarda, questo è un po' largo, ti faccio, per me è un senso di coso, di quando mi fa un'osservazione e dice, guarda che con la radio non sta uscendo tanto bene, e c'è di lato qualcuno dice, ma tu la tua l'hai vista qua, e c'era gente che si offendeva quando tu gli dicevi, guarda che quella radio è distorta, ma cosa stai dicendo qua, tu l'hai vista la tua, no, non mi chiedere controlli, grazie a Dio li posso dare con cognizione di causa, oltre che c'ho anche abbastanza l'orecchio abituato, però c'è anche le possibilità di vedere oltre che sentire. Qualcuno si offendeva, è capitato più di una volta, e quello mi dispiace. Quando tu ti ho chiesto i tipi di emissione, com'era il coso, quando mi hai detto, guarda, quello lì è il classico baracchinetto, quello è un po' meglio e questo è ancora meglio, per me è un senso di coso, di ti devo ringraziare di un fatto, qualcuno se la può prendere anche a mano, e poi quello che ti fa le polemiche è quello che ti ascolta con una da 48, con l'altro palantino da 4 cm e ti dice che stai uscendo bene o male. Io quando ascolto devo ascoltare con qualche cosa di serio, e soprattutto con un altro parlante che mi permetta di avere una certa fedeltà. Di nuovo a te, Gianfranco. Sante. Che avanti. Buonasera Carlo. Sì, ciao Carlo, ben sentito con la seconda, ieri la prima, sei in compagnia anche mia da Roberto da questa parte e Gianfranco dall'altra. Ti rilancio Gianfranco e vediamo un pochettino. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Carlo, mi hanno ascoltato, non so se mi ascolti perché se non ricordo male sei da Porto Torres, se non sbaglio. Io sto andando a bassa potenza, un watt e mezzo all'incirca, per essere esatti, un watt e 8, dai. Vediamo un po' se mi hai ascoltato. Avanti a te Carlo. Allora, io sono a Sassari, zona via Luna e Sole, non Porto Torres, comunque ti ascolto bene. Santiago 9, Radio 4, abbastanza bene, precisamente via Salvatore Dau, all'altezza del bullying, grosso modo è quella la zona. Ah sì, ho capito. No, perché mi ricordavo c'è un Carlo anche a Porto Torres, lo sto sbagliando io come nome. Vabbè, l'età abbi pazienza. Riprendi Roberto. Allora, l'unico Carlo che ho conosciuto io era quello di Alghero, anzi ce n'erano due, uno radioamatore e l'altro lo stesso. E poi quello forse ti stai riferendo tu è un certo Claudio che trasmette a Porto Torres più o meno all'altezza del faro, se non sbaglio. Hai ragione, sì. Ok, Claudio, Carlo, penso che tu mi ascolti perfettamente, che siamo abbastanza vicini, io ti sto dando un segnale di 9.40 abbondante, sta arrivando la bomba qua. È tanto, qua la tua radio è una bombetta proprio squillante, si sente benissimo, il segnale massimo, il radio ottimo. E è diversa da quella che mi ascoltavi ieri, questo è un altro tipo di concezione di radio. Mi ha detto un amico Gianfranco, che ha la possibilità di anche lui, oltre che di ascoltare, di vedere, che sicuramente questa è molto meglio come emissione rispetto all'altra. Parliamo di pulizia di segnale, magari può essere meno performante a livello di volume, però questo è un tipo di radio magari un pochettino più, diciamo, più di qualità, dai, non diciamo altro. Ok, di nuovo a te Gianfranco. Sì, infatti ogni tanto è giusto riferirsi, oltre che alla chiarezza, anche all'occupazione di banda, che c'è una modulazione. E spesso le due cose non è che vadano molto d'accordo, soprattutto quando la larghezza diventa larga, perché gli apparati sono filtrati poi in un determinato modo, inizia a tagliare e non si capisce un tubo. Ancora te, Carlo, se mi stavo confondendo prima con Claudio, giusto? Non è un problema, anzi scusate che io ho interrotto la vostra discussione, sono appena rientrato dal solito giro in bicicletta per la città e quindi mentre preparavo qualcosa ho acceso, sentivo la vostra discussione, la radio è libera e ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, pareri, poi uno le ascolta e applica quello che vuole senza nessuna discussione. Io ascolto a volte solamente e solo qualche volta entro per chiedere un chiarimento, qualcosa che non so, quindi sempre ben accetto il consiglio degli altri, di chi più è esperto di me, per carità. Giusto per quello, io sto in cucina adesso a preparare un po', comunque vi ascolto di nuovo e magari ci sentiamo tra un attimo. Mi sentite dalla Sinara? No, non sentiamo nessuno, questo è uno sblatte di qualcuno di qua. È bello. Break dalla Sinara. Ah sì, non ce ne sono qua, cacchio. Avanti la Sinara, dai. Scappa, saluto a tutti, a parte mia, Monte Rosello. A casa tua sei tu? No. C'è Carlo che adesso è in Corrix, sta facendo le faccende culinarie, dai, non cucinare. E poi c'è Gianfranco, ti lascio, facciamo il mic a Gianfranco, avanti per Luca. Sì, ciao Luca, buonasera. Carlo mi ha ricordato, ho detto parlare di cena, guardate l'orologio, sono diventate le 8. Vabbè, visto piano piano si è saliti fino a questo orario. E per me, come sai, è l'orario della donata del rancio, quindi ne approfitto subito. Ciao Carlo, buona preparazione in cucina. E ben ascoltato, ciao Luca e ciao Roberto, alla prossima, ti rilancio il micro e scappo via. Ehi, ciao, grazie della chiacchierata, sempre interessante come al solito, non c'è problema, ti auguro un buon proseguo di serata, se devi mangiare buona carica, anche io tra poco chiudo, sto aspettando che mi chiamino, e va bene, dai, di nuovo a te Luca, se vuoi salutare, poi c'era qualcuno che voleva entrare e vediamo dopo, avanti, per i saluti Luca. Ehi, ciao Gianfra, salutoni, no, volevo dire a Carlo se mi ascolta. Perfettamente, Radio Santiago, diciamo 10 e Radio 5, io sento bene tutti. Vabbè, tu stai andando a fondo scala qua, Sì, a fondo, la Radio 5, anche da parte mia, arrivi benissimo. Ma sei in macchina o a casa? No, negativo, a casa, ce l'ho, diciamo, in cucina, in fisso, anche se lo posso scollegare e collegare facilmente in macchina, perché ho lasciato l'attacco accendisigari e, diciamo, ho combinato tutto così perché eventualmente lo posso mettere anche in macchina. Sì, ma stai usando un'antenna di macchina adesso? No, negativo, è un dipolo della Sirio SD27 messo in polarizzazione orizzontale, sì. Benissimo, molto molto bene, sì. Sì, da parte mia è qua al latte dolce, dai. No, latte dolce, più o meno. Latte dolce è Santa Maria di Pisa. Però la mia station, adesso sono dalla mia 25, la mia station è lì al monte, Monte Rosello. Ascolto molto bene, io praticamente abito vicino alla palazzina Telecom dove ci sono tutti quei ripetitori, le antenne, quindi è una zona molto alta e diciamo ho tutto libero, non ho altri palazzi, quindi penso che diciamo tutta la zona anche bassa di Sassari, Latte Dolce, il Monte, lì vi sento bene tutti. K, sì arrivi bene, dai. Niente, io questo passaggio se ci siete dopo, Robert riprendo dopo, e se no alle prossime, dai, ciao Robert, ciao anche a Carlo e ciao a chi sta ascoltando, alla prossima. O più tardi o la prossima, ciao, ripeto Robert. Ciao Luca, adesso anche troppo con sacco, dai, naturalmente dopo se ne ho voglia e tempo vediamo di risentirci, ok, buon tutto Luca, io direi di lasciare un attimo nel bianco e facciamo entrare l'amico che poco fa stava cercando di entrare, avanti che vuole entrare sul 10, nulla, vabbè faccio una domanda a Carlo se può rispondere, come mai sta utilizzando un'antenna, un dipolo, hai possibilità di montare una verticale o è una scelta? No, posso addirittura girarlo e metterlo in verticale, è che diciamo una scelta, ho voluto provare perché ho avuto in passato sempre antenne verticali, diciamo piazzate in orizzontale col dipolo magari ogni tanto diciamo per tentare qualche dixer collegamento lontano quando lo permette ovviamente la propagazione, cosa che ho fatto anche qualche settimana fa con le Baleari, sono riuscito a parlare, sentivo benissimo, mi sentivano lo stesso bene, quindi giusto per quello, poi magari ho meno anche QRM in antenna con quella polarizzazione, mentre in verticale si prende un po' il QRM che diciamo è in risalita dal piano terra, ecco, solo per quello, solo per provare, solo diciamo per questo motivo, altri motivi non ce ne sono. No, a parte mia, ti ripeto, il segnale è fortissimo, siamo molto vicini, per cui non è sempre il problema, può nascere per quando entrano quelli tipo ieri da Muros, qualcuno da Alghero, qualcuno da Porto Torres, vai, con quel tipo di polarizzazione avrai delle grosse difficoltà, a meno che non c'è indirizzata l'antenna in quella direzione lì, per cui se ti interessa così c'è la possibilità, poi magari puoi mettere due antenne, quelle commuti con un coso, o poi metti due cavi e te la metti in verticale, ma tu sei in piano alto o basso, c'è difficoltà a mettere l'antenna sul tetto eccetera? Allora no, io sono al terzo piano e l'antenna ce l'ho proprio sul tetto, non ho problemi a salire sul tetto, c'è il ascensore, quindi salgo su e là ho sistemato un palo e posso salirci perché c'è una casetta del piano del vaso d'espansione dell'impianto di riscalamento che non è più utilizzato, quindi salgo sopra e quindi ho la, anche facilmente posso sostituire, cambiare, invertire, posso fare qualsiasi cosa, ho circa una discesa di 30 metri di cavo. Se vuoi usare quella discesa ti metti un commutatore telecoassiale, ti puoi utilizzare un unico cavo, però a quel punto se c'è possibilità ti fai un'altra calata e c'hai due antenne completamente indipendenti e ti metti giù il commutatore e fai quello che vuoi. È sempre bello avere una verticale, può capitare anche un collegamento qua non a lunga distanza, perché se colleghi le Canarie, le Baleari eccetera eccetera, non è che sia importantissima quando c'è la propagazione la polarizzazione, ma se devi collegare un paesino vedere a 30 km o di Boccolo non va da nessuna parte, come sempre avere una verticale. Io il contrario, adesso ho la verticale e devo montare l'orizzontale, però in direttiva quella, quattro elementi. Sì, è una cosa che diciamo penso di valuterò, ecco, perché se avessi la possibilità di far scendere un altro capo, così piazzo un piccolo commutatore e riesco a fare quello che tu mi dicevi. Al cavo ce l'hai in facciata o che cosa? No, centro tetto, è proprio al centro del tetto, non si vede nella facciata, quindi diciamo anche nascosta l'antenna. No, ma dico, se lo devi portare a casa tua il cavo, devi passare da qualche parte visibile o è tutto nascosto? No, è tutto nascosto, passa sul retro dove ho la cucina e quindi c'è la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento, per cui è nascosto, non è nella facciata principale. E quindi è abbastanza tranquillo, no, perché c'è qualcuno qua in frequenza, purtroppo c'ha grossi problemi di condominio e non può far niente, per cui si deve adattare con un antennino di quelle di macchina o magnetica o una di quella boomerang attaccata sulla grondaia, sulla ringhiera, se no non può fare niente, ma se ha la possibilità di mettere un paletto e coso, mettere un antenna anche non fa mai male, io dico sempre se c'è possibilità, più antenne ci sono magari dedicate anche per altre frequenze, io ne ho diverse, in modo che riesci a far rendere al massimo l'impianto, sia di trasmissione o ricezione se devi utilizzarlo per altri tipi di cose. Ieri ho sentito l'amico di Muro corso modulare, ma poi non sono potuto entrare e ascoltavo perché stavamo cenando, e diciamo lo sentivo un pochettino basso, e magari nei prossimi giorni, se magari entra in ruota, magari vedo di fare qualche controllo per vedere più o meno come riesco a gestire questo tipo di antenna che ho messo e la polarizzazione, se riesco ad arrivare oltre Sassari, insomma, facilmente. Con Alghero ancora non ho sentito nessuno e non ho fatto nessun collegamento, adesso vedo. Comunque penso che la piazzerò perché non ho nessun problema, c'è posto per mettere un'altra antenna tranquillamente. Ciao Roberto, c'è anche Carlo Santiago 8, Radio 5, qui a Ottava, benissimo. Ok, avanti Roberto, non so, per un saluto, sono di passaggio, stavo calcolando, so per un saluto, avanti Roberto, è quello che ti prendo l'atto, chiudendo, avanti. Scusa, siccome ti sento un po' strano, ma Marino sì? Bravo Marino Roberto. Non ti capisco, scusa. Bravo, sono io. E ti sento male, come mai? La radio? Cos'è, dopo, sta fischiando sta? Ti sento tipo compresso, Carlo, strano. Perché? Registrato. Ciao Giulio, buonasera. Aspetta, ammazzo un po'. Guarda in questo passaggio, Roberto. Sì, adesso è migliorato tantissimo. Eri troppo compresso, cioè sembrava una voce diversa, infatti non riuscivo a capire che eri tu. Comunque, sei compagnia di Carlo. Carlo, tenete presente, sta uscendo in orizzontale, in zona alta di Sassari, buona posizione, però vediamo se ti ascolta. Avanti, e poi faccio entrare a Giulio. Carlo, avanti, Marino per Carlo. Avanti, Marino. Ok, io a Carlo ascolto. Un Santiago di 8 qui a Ottava, Super 5, abbastanza bene. Io sono solo per salutare, benissimo, adesso lascio il micro, dico Giulio che arriva, che è entrato, che vuole entrare, io chiudo che mi stavo chiamando, avanti Giulio, qua buonasera per me, quella di avanti. Sì, ti sento anche io, il segnale è buono, la radio è un po' compressa, però abbastanza comprensibile, comunque ti saluto Marino, alle prossime, ciao. Greco, registrato Greco, ciao Marino, salutoni, bene. Bene ascoltato, io anch'io sono appena arrivato, mi ero in giro, ho fatto una lunga passeggiata, dunque adesso sono venuto qua in questa stanza, ho acceso la radio, vi ho sentito, ciao Roberto, ciao anche Antonio che ha prestato un momento fa e ciao a Carlo, avanti Giulio frequenta, bene Roberto. Sì, ciao Giulio, ben sentito, adesso anche qui ho qualche minutino, sto aspettando che mi chiamino per fare la pappa. Ok, facciamo entrare Antonio, vediamo Antonio, a te il mic. Capo, buonasera a tutti, buonasera anche all'altro amico che non l'ho mai sentito, Antonio è questa, capo. Dai, io vi rientro dopo perché insomma da mangiare, ok. Sono andato a salutare, ok, saluto anche l'altro amico. Dai Carlo. Bene Nera, grazie, questa è un'ora un po' critica, è ora di cena, se ho la possibilità magari anche dopo cena una mezz'oretta, perché domani mattina mi alzo alle 4 per andare a lavoro, io ho i turni, quindi molte volte la mattina mi devo alzare molto presto. Carlo, ma da dove moduli Carlo? Da Sassari, zona Luna e Sole, via Dau precisamente. Ah, capo, ho capito adesso. Capo, mi arrivo Santiago di 9 Radio 5, mi arrivi. 9 qualcosa, capo, mi arrivi bene da quella zona. Dai Giulio. Ok, dai. Sì, saluto di nuovo. Ciao Carlo, ben ascoltato. Sì, Santiago 8, io ti dicevo, la radio è buonissima. Va benissimo, non c'è problema. Io sono appena rientrato dopo aver fatto una lunga passeggiata stasera, per cui sono un po' stanchino. Dai, riprendi pure, Carlo. Dai, riprendo io, dai, mi hanno chiamato. Dai, Mari, se coincide ci sentiamo dopo. Vi saluto a tutti. Ciao Giulio, ciao Antonio, ciao Carlo e eventuali qua amici, anche Marino, su questo canale 10. Io vado a mangiare, se coincide dopo, se no alle prossime. Di nuovo, da parte mia, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, vabbè, ci sentiamo. Anch'io chiudo, ciao. Ciao Carlo, se mi stai ascoltando, ciao Marino, Antonio e tutti gli altri. Saluto a tutti, chiudo anch'io per la cena, ciao. Riprendo io, ciao Roberto, ciao Giulio, ciao Antonio. Ciao anche a Carlo, anche per me, QRT, anche per me mi hanno chiamato. Sono solo per un saluto e basta, ok. Carlo, riprendi per me Marino da Ottava, QRT. Ciao, avanti Carlo. Ok, buona cena anche io saluto che siamo pronti, ci sentiamo magari più tardi. Ciao, rilancio e saluti a tutti. Ok, ciao Carlo. A me non mi ascolti a me Carlo? Molto, ti ascolto molto bene, al massimo, fondo scala, radio buona. Ok, Giulio da questa parte, va bene. Comunque vi saluto tutti qua, che mi hanno chiamato per la cena, dunque, è allora fatidica questa, ciao, saluto a tutti, chiudo, ciao. Giulio, hai fatto una bella camminata, si sente la stanchezza. Vabbè, ogni tanto bisogna fare anche qualche piccola camminata. Ci vuole, ci vuole, ci vuole, ok. Ciao Giulio, buona cena, saluto in casa, ciao, ciao, buona giornata per me, ciao. Ciao, ciao Mario. Ascolta, ti volevo chiedere prima di chiudere, Mario, ma c'è una radio predisposta, ad esempio, per ritirare il vetro, la mattina, oppure il barattolame? Ma è possibile che uno debba passare alle 5 del mattino a caricare il vetro con un baccano che fa del diavolo? Una cosa incredibile. Ma questo non si può cambiare a un altro orario, un orario un pochino più tardi? Beh, purtroppo l'ha deciso il comune, Giulio, l'ha deciso il comune, più tardi non ce la fanno perché c'è un altro turno, capito? Non è la zona del punto, lo so, fa un bel casotto, io lo so, il giorno dove abito io e qui fa casino, mio collega fa lo stesso solito casotto, l'orario è quello, non c'è niente da fare, anche altri nostri che altre zone si stanno lamentando, purtroppo l'orario è quello lì, l'ha deciso il comune, non l'azienda, avanti giù. Ok Maria, sì, ho capito. No, perché ho visto ad esempio ad Alghero hanno cambiato la radio e passano le 8 per ritirare il vetro. Perché non è possibile, ragazzi, perché uno alle 5 del mattino debba essere disturbato non solo una persona o due persone, ma tutta un'intera borgata che viene disturbata dal ritirare il vetro. Ma non è possibile. Poi naturalmente chi ha fatto questo orario evidentemente è un incapace, io la penso così. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao Mari, ci sentiamo, ciao. Ci sentiamo un calma Giulio, dai, parliamo. Ci vediamo da raccontare, ok. Ciao, buona cena, saluto in casa Giulio, ciao ciao. Attenzione 10K. Hola. Oi, ciao Cri, Andy C. Quindi la sosta, lo sai, non cosa c'è? Ma sarei in guardia, sei 9.30, sì. Sono tagliati via, da Pascoli. 9.30 Radio 5, mi sta arrivando un bel forte, mi sta arrivando. Questa è anche la mia nuova, scusa. Ciao, ma passa un po' quell'ecco, quelle rotelline, metti un po' appena giù. Quindi è meglio. Capa, prova a vedere. Quindi è meglio, va. Molto meglio. Ehi caspita, sì, una bomba, sì, c'è un bel forte qua. Stai arrivando. Caspitina. Vedete cosa. La base della Silo Forza Nera. Con Silo della Lombole. Capa, una bomba, sì. Fino adesso sì, 9.30. Capa, ma penso che anche io lì arrivo fortissimo. Tu comunque c'è a palla il cannone. Perché ho visto, facendo di cannone lemmo, troppo smilza mi è sembrata, però ho messo quella dell'assidio, che è più grande. Ah, hai messo l'assidio, le sirio vanno bene. Ho messo la base magnetica dell'assidio, che è la 150, non quella della lemma. Quanto è grande? 1,50 l'antenna. Ha voglia. Perché la Siria andava a Napoli, andava accordata la Siria. Quella che c'era prima andava accordata? Sì, la chiamano poi stazionaria anche. Ah, questa sta spingendo forte. Stai arrivando fortissimo qua, Contate tutto che io so, che se ne è parlato il cazzo sei 9.30. Mi si presenta la farmacia di Pascoli, io sono quello di fronte. Capa, sei fortissimo, sei. Non è che ci sei lontano io, no? Sì, ma sono già palazzi però. Capa, ma sei in movimento? Ma sono fermo. Capa, no, fortissimo proprio. È meglio dell'altra, addirittura. Cazzo, ha ciambato dal giorno alla notte. Sì, ma sono fermo, sono andato dal fusario. Palermo con base magnetica, 40 euro, passo con patrono con l'antenna, scusa. Gappa, e chi te l'ha tarata, tuo fratello? Ho già tarata. Sei sicuro? Quanto ti dai stazionaria? Non so, apposta, non l'ufficio, niente, non è esca, perfetto. No, devi guardare con lo strumento. Cos'è, sono a posto? Ho andato l'altro giorno con questo tuo amico e a posto stazionaria. Chi l'ha misurata? Un amico, di questo sardo. Ah, è corroso, metro suo. Minimo, vedo mattore. Allora già va bene, oh, fortunato è, che mi divorzi tocca a misurarle. Nessuno scuola buccio di chiulla. Cappa, che culo. Allora c'è anche il suo capo originale, tutto. Il capo completo. Hai preso la basetta da completa. Esatto, la base magnetica e cavo, tutto completo. Buono, buono. E sicuramente l'assilio va abbassato lo stilo, mi va tolta quella ventina e abbassata. No, non è vettina niente, è solo il coso, la carica e lo stilo lungo e basta, boh, non c'è altro. No, là già ce li hanno le antenne, già. C'hanno una vettina piccolina, c'hanno, ambrugolina. E bisogna alzarla e abbassarla, come non ce l'ha? Ce l'hanno tutte le antenne. Ma se non è perfetto, non è perfetto da quando uscita da casa, perfettissima. Meno male, molto ti ha fatto pagare. 40 euro. Ah, neanche tanto. Hai visto il Turbo 2001 con la bandiera sarda? Ho visto la Turbo 2001 su internet. 30 euro stanno vendendo. È buona già. Cioè, è buona. E quel prezzo, la LEM già, ti ha sempre fatto antenne buone, la verità. Poi io la aspetto, ti dico che anche no. Gappa, cos'era c'ha la LEM? Io c'ho la LEM Magnetic Atic 1231. Già è buona già. Fatto un altro mezzo, no, soddisfacente, non è male. No, è male no. Lo sai dal tetto a qua quanti metri di capoccioio? Io avrei 5 metri. 6 metri di capoccio. Sì, forse è andata l'antenna a casa, è probabile, ma la capo è il mio 11 metri. No, perché ce l'ho sotto la testa, capito? Ma che sotto la testa, ma il capo per me è meno 11 metri, perché ho quello lì già. Hai compreso, no? Io ho l'antenna sotto qua. Apro un cernaio e la vedo, capito? L'ho messa nella tappa del condizionatore, l'ho attaccata. Non è male, dai. Ti puoi immaginare. Già dove si vede la mia antenna? No, non so prima che la metti tu, fidati. Qua c'è la palestra, c'è. Cos'è? L'argomarca cappuccina che gatto è. Quella via che scende, dopo Bruno. Ho capito, ho capito. Di per un circolo è quello spazio. Si vuole capire, no, non so che antenna metti a casa io, mettere una piccolina. Certo, non è che mi fai più di tanto. Cappa, ci ho piazzato questa qua e va bene. Era la rincovecciata mio padre, è il modello vecchio. Non c'è col tipo quello basta la discopa e vai. Sul tetto, voglia che arriva a Sassari. Paga la storm. Sì, metto la storm al limite, tanto sul tetto non è. Ah, no, metti questa che è meglio. E adesso vedo cosa fare, là, è tanto mio, la metto stanno plus sul tetto, adesso non salgo sul tetto. Mettici la cosa, la boomerang, quella grande. Quella grande, quella è perfetta, va bene. Adesso vedo la internet, ti trovo. Ce l'ha Fusaro, quella l'avevo comprata io una volta e spinge forte quella. Quella esce bene. Ah, me, quindi possiamo la controllare. Scappa, ce l'ha anche Luca, ce l'ha, cazzo, mi arriva oltre 9,20 da latte dolce. Cazzo, arriva un bel foci. Quella tira, c'è prodotto la saperta anche da parte mia. Scappa, e tu già sei. Già lo sai, tu già. Già. Ma mi pare che l'abbia già installata in campagna, una di quelle. Ma no, da io, guarda, da casa mia vedo, la rotatoria che hanno fatto nuova, figurati. Cappa, oggi ti in piazza una di chi? Una rincoglianda. Adesso vedo che piazza non è, adesso mi deciderò più là. Per il momento in macchina. Come macchina, dai, stato a casa, voglio pochissimo da casa io. Perché sono io, ho sofferto per lavoro, ho detto 10 di sera, capito, per lavoro, non si faceva mai a casa. Cappa. Se non ci sei mai a casa la di come la cantina in macchina. Cosa campi in macchina? Che si vuol dire? Travaglio non ha ciappi. Si difidi. Travaglio non ha ciappi. A me la parata ce l'ho per casa, ce l'ho l'ubicom, per casa mia, non ho problemi per quello. Cappa, hai da lavoro o non è trovi? Sì, faccio una manutenzione io. Ah, stai già lavorando? Cappa. Meno male. C'è di piccole manutenzioni, così è? Io lavoro sempre, grazie a Dio, meno male. Lavoro ogni giorno, ma lavoro abbastanza. Quelle 500 euro o 1000 euro, se non me le pulite, se non ci pulite pulite, me le faccio anche. E allora già va bene. Cappa. Vabbè dai, lui, io ti... Ma intendo a me, Michi, io ti saluto. Adesso vado a nanna perché sono stanchissimo. Buonanotte, ci sentiamo. Buonanotte, dai, sotto la tua velocità. Cappa, adesso sei in viaggio, ciao, ti salutano. Sì, ha detto grazie. Ciao, buonanotte, Cri. Non so che sei in viaggio. Buonanotte, chiaro. Ciao, ciao.